Siete fuori controllo, siete fuori anima, anima, anima. Fuck the system, dentro un sistema balordo. Piccolo rabbit sfida il crollo, un orologio che scandisce, che scandisce. Ribelle, soul, soul, soul. Di quel blues di vita in un orologio rap. Muove tra tana e tana, nascondiglio di fame d'anima, di fame d'anima. In tono soul, un blues di un violino perso. Un padre e una madre che lacrima. Scandisce d'oblio, lento, tango di fango. Perduto nel melenso senso di un perso, di fame, di sesto senso. Rabbit, rabbit, rabbit, rabbia. Che penso, che melenso. In un inchiostro di fiori di ieri, di ricordi di ieri. Perduto fiore, sento fame di averti perso, averti perso, averti perso, averti perso, averti perso, averti perso. Siete fuori controllo, siete fuori anima, anima, anima. Dentro a un sistema balordo, fatto il sistema. Piccolo rabbit sfida il crollo, un orologio che scandisce. Ribelle, soul, soul, soul. Di quel blues di vita in un orologio rap. Muove tana tra tana, nascondiglio d'anima. In tono soul, un blues, un violino perso. Un violino perso.